Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Chi dice che le parole sono solo parole non conosce il linguaggio e neppure la mente umana. Ci sono parole che sole al centro di una pagina bianca trascinano con sé universi interi. Mi chiamo Anna, ho 33 anni, vivo a Chiari, in provincia di Brescia. Mi occupo di cinema, TV e media. Le parole sono un po' come l'aria che respiriamo, ci sono fondamentali per sopravvivere, ma non ce ne accorgiamo né di respirarla, l'aria, né di usarle le parole, spesso e volentieri anzi le usiamo in maniera sbagliata e delle volte invece ci sono delle parole che rimangono incastonate da qualche parte del nostro corpo, del nostro cervello o del nostro passato e rimangono lì come una sorta di totem, come un riferimento che vogliamo cancellare ma che prima o poi torna fuori. E se quelle parole ci fanno paura, quando tornano fuori la vita non è mai così semplice. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16 e 11 minuti. Ogni giorno raccontiamo una storia, voi siete qui. Raccontiamo un pezzo di vita di una persona. Oggi è la volta di Anna, che ha avuto la voglia e la forza di raccontarci qual è la sua paura, la sua parola, la parola che le fa paura. Se voi avete una parola che solo a pronunciarla, solo a sentirla, anzi guardate, facciamo così, solo a immaginarla vi fa paura. 349-238-6666, se avete un profilo Facebook o un profilo Twitter, noi ce l'abbiamo e quindi cercateci. E voi siete qui Radio 24 per Facebook e voi siete qui R24 per Twitter. Già alcuni hanno scritto: Salvatore, la parola che mi fa paura è solitudine. Manuel, mai più nella vita. Manuel, questa è una frase, una parola, una sola. Francesco, folla. Filippo, soqquadro. Parola aliena che riempie la bocca. Laura, nucleare. Cristina, ignoranza. Marco, assolutamente sì e assolutamente no. Cosa vuol dire? Ah, sono queste le parole. Una sola parola. Ubaldo, la parola che mi fa paura è domani. Qualunque sia la parola che vi fa paura, oggi parliamo di quella. 349-238-6666. Adesso abbassate un po' il rumore intorno a voi e ascoltatevi qual è la paura, la parola che fa paura ad Anna. Chi dice che le parole sono solo parole non conosce il linguaggio e neppure la mente umana. Ci sono parole che sole al centro di una pagina bianca trascinano con sé universi interi. Io ad esempio amo le parole cadute in disuso, tipo pargolo. Mi portano a un passato in cui non ho mai vissuto, fatto di silenzi e primavere infinite. Un passato che forse non è nemmeno mai esistito così come lo vedo. Oppure mi piacciono certi termini tecnici, termini che, legati a contesti specifici, perdono il loro significato naturale e diventano straordinarie. Le stringhe, ad esempio. Le stringhe sono davvero meravigliose, se non pensi alle scarpe, ma agli universi paralleli. E poi invece ci sono parole che detesto, uggioso per dirne una. Mi è sempre sembrata vuota, come le giornate che evoca. Ma anche la parola giovani, che solo un vecchio userebbe per parlare dei ragazzi. E poi c'è quella parola che non riesco a estirpare dalla mia testa, quella che sembra essere una parte di me, spiacevole ed inevitabile come una malattia cronica, che mi ricorda certi cliché giornalistici, certi schemi psicanalitici, certi raffreddamenti giuridici degli eventi. C'è quella parola terribile: abuso. L'attenzione alle parole arriva un po' dal mio lavoro e un po' dalla mia indole. Io scrivo tantissimo, ho sempre scritto. L'infanzia non è un posto comodo a cui tornare, se nella testa hai quella parola e non riesci a costruire altro attorno ad essa. È come se sulla tua piccola città ancora in costruzione fosse stata gettata una bomba. E ora, e sempre, quello che resta sono solo le macerie. Sì, la mia infanzia è un cumulo di macerie per colpa di una parola a cui non riesco ad attaccare nient'altro. Una parola che significa tutto e nulla, se quello che riesci a vedere guardando al passato sono solo dei sussurri. Non ricordo quanti anni avessi precisamente, forse 7 o 8. E neppure ho chiari gli eventi. E finora qualsiasi tentativo in questo senso è stato vano. Continuo a conservare solo qualche coccio pieno di polvere, qualche residuo deforme, un mulino lontano, una grande camera da letto e poi il buio, la notte, il dito in bocca e quel pensiero fisso: domani lo dico alla mamma e al papà. E non gliel'ho mai detto comunque. Ho subito cancellato tutto, come si trattasse di un pessimo disegno. Forse sono io che ho gettato la bomba sulla città. Certamente l'ho abbandonata subito, e così la mia infanzia è diventata una città fantasma. Con gli anni la mia testa aveva coperto ogni cosa, come fa l'edera sulle tombe mai visitate. Un giorno, diversi anni fa, tornavo dall'università e su un treno mi ero abbandonata ai pensieri, senza una meta precisa. Sui mezzi pubblici, guardando il mio riflesso sul finestrino, troppo stanca per leggere o per telefonare o fare altro, mi perdevo spesso così, lasciando la mente a briglie sciolte. E quindi non ho fatto attenzione a quello in cui sarebbe inciampata. Senza saperlo, ho ritrovato quella tomba, troppo distrutta per capire perché il caro estinto fosse deceduto. Ma non abbastanza per non riconoscerne l'immagine scavata nel marmo, e così ho scoperto che il caro estinto era la mia infanzia. Da quel momento ho tentato di cancellare, di razionalizzare, di negare, obbligandomi a non guardare, ma sbirciando fra le dita come fanno i bambini con i film che gli fanno paura e che pure desiderano vedere. Tutti i miei tentativi di fuga non sono riusciti a seminare quel ricordo che è monco e cieco e sordo, ma sa come trovarmi. Non voglio evitare di pensarci, io vorrei ricordarmelo meglio, perché tutto il mio percorso, da che mi è venuto alla mente questo flash, riguarda il fatto di capire tutto. Non voglio non ricordarlo, voglio ricordarlo. E una notte mi sono resa conto di quanto fragili fossero le mie scappatoie. Quando alla mia frase «Beh, ma anche se fosse, è successo a tutti», chi mi stava accanto ha domandato solo: che cosa è successo a tutti, Anna? E mi sono ritrovata di fronte a me stessa, troppo stanca per scappare ancora. Da quel momento ricordare non è stato quella passeggiata che uno pensa. E scavare finora non ha prodotto ad ogni profondità che la stessa immagine enigmatica, come con le matriosche. Con il timore che un giorno, alla fine, invece di trovare finalmente il cuore, io non trovi proprio, come per le bambole russe, solo un'ultima miniatura che sorride e non dice nulla. Oh no, no melody, no matter how sincere, or loaded with metaphor, can force you to appear in somebody else's voice. What could be come of that deadpan delivery? Le parole sono azioni e fanno accadere le cose. Lo disse nel 1945 Ludwig Wittgenstein. Le parole, in base a come le usi e a come le metti insieme, al punto o al momento in cui le dici, disegnano le cose, danno loro un carattere, le fanno accadere. Si parla spesso del potere evocativo della musica, ad esempio, l'arte perfetta, quella che non vedi, che non ha bisogno di filtri per raggiungerti. La musica ha il potere di portarti in un luogo e in un tempo particolare. Il luogo e il tempo in cui quella musica l'hai ascoltata per la prima volta. E se poi quella musica l'hai riascoltata, magari un'altra volta e un'altra volta ancora, quella musica avrà per sempre il sapore e il colore di quel periodo. E ti basterà sentirne poche note per essere trasportato là, in un secondo. Ma si parla spesso anche del potere evocativo dell'odore, ad esempio, o del sapore. Proust ci ha scritto pagine di letteratura altissima sul sapore di un pasticcino pucciato nel tè che trasporta immediatamente il protagonista indietro nel tempo, quando da ragazzo la zia gli preparava un tè proprio con quel pasticcino, una Madeleine. La storia di Anna invece racconta un'altra cosa. Parla di come le parole siano in grado non solo di far riemergere i ricordi, ma come riescano a muovere le cose, a generare reazioni, anche senza che nessuno le pronunci, anche solo rievocandole nella propria mente, soprattutto quando sono parole pericolose, parole che fanno male. Quando ero ragazzino c'era una parola che mi spaventava, e la parola era profondità. Non ricordo quando la sentii per la prima volta, ma ricordo bene che cosa significava per me quella parola e che cosa mi ricorda. Era un giorno di fine estate, ero nel cortile di casa insieme ai miei genitori. Stavamo facendo qualche piccolo lavoro nel giardino dopo essere stati via al mare per 3 settimane. A un certo punto sentii mio padre parlare con qualcuno che passava in strada al di là del cancello. Vedo avvicinarsi anche mia madre. Sento che parlano nel modo in cui parlano i grandi quando non vogliono far sentire qualcosa ai bambini. E visto che sono un bambino, ovviamente lo capisco e non provo nemmeno ad avvicinarmi. Continuo a fare quella cosa che sto facendo, cercando di non mostrare ormai l'inutilità di quello che sto facendo. E a un certo punto sento pronunciare una frase in cui si parla di mare, di bombole, di malore improvviso. E poi queste parole messe insieme. Ebbrezza da profondità. La parola ebbrezza era troppo leggera, troppo bella per fare paura. Ma l'altra parola, profondità, unita al tono e al modo di parlare dei miei genitori e di quei signori oltre il cancello di casa, la fece suonare terrificante. La sera scoprii che un amico molto caro di mio papà, che conoscevo anche io e mi piaceva molto, era mancato durante un'immersione nei mari della Sardegna. Non mi sono mai immerso in vita mia, non ho mai avuto paura del mare, ma quella parola, profondità, mi fa paura ancora adesso. Disprezzo, totalitarismo, soprusi, burocrazia, omofobia, la parola che vi fa paura. Oggi in diretta voi siete qui, 349-238-6666 se volete mandare un sms o altrimenti tutti i vari profili, Facebook e Twitter. C'è un'immagine che è molto precisa, che Anna descrive nel suo racconto per parlare, per definire un termine, che è il termine che in realtà lei dice non le fa paura, ma le fa scattare tutta una serie di cose. Quel termine è abuso, ma l'immagine che definisce in maniera perfetta, secondo me, la sua infanzia è quella di una città bombardata. Pronto, Anna? Ciao. Ciao, come stai? Bene, ho la cervicale, non c'è male. Ok, dai. A parte la cervicale, quindi sei a casa dal lavoro, mi dicevi prima. Sì, esatto. Senti, io partirei proprio da qua, da quella frase di Wittgenstein che ho trovato quando cercavo cercavo di trovare un modo per raccontare un pezzo insieme alla tua storia. Le parole sono azioni, no? E fanno accadere delle cose. Che cosa è accaduto quel giorno sul dove eri? Sul treno o sì, sulla metropolitana? Insomma, sul mezzo di trasporto. Quando ti è tornata in mente quella parola? Allora, io credo che tra l'altro il ricordo della parola mi si sia innescato perché ho visto una casa lontana e mi è venuta in mente una casa lontana per l'appunto, certo, perché questa famosa casa era di fronte, era a una certa distanza, qualche chilometro da un mulino, ma non c'era nulla attorno, per cui io ho ricordato questo mulino. Ok, quindi un'immagine in realtà, sì, ti ha fatto arrivare a una parola e quindi sì, a scavare nel tuo passato sostanzialmente. Esatto, sì, è stata proprio un'azione da un certo punto di vista, è un meccanismo mentale legato a casa, mulino e ricordo. E tornavi dall'università, giusto? Quindi avevi, sì, una ventina d'anni. Sì, sì, sì. Quindi scusami Anna, io ne parlo, facciamo così, che io ti chiedo tutto e tu se non mi vuoi non mi rispondi, ok? Così evitiamo di... Okay. Evito io di avere problemi a chiederti e tu di problemi di rispondermi. E in quegli anni, cioè negli, sì, anni che sono andati dall'infanzia a quel giorno sul treno, tu avevi completamente rimosso, semplicemente non ti ricordavi, non volevi farlo e poi è scattato tutto quel giorno? Completamente rimosso. È proprio una cosa infatti che un po' forse è quella che ha segnato di più poi gli eventi, la mia vita, il mio carattere, immagino. Il bombardamento, insomma, quello che tu definisci. Sì, totalmente, è come se io veramente fossi inciampata in qualcosa che mai più, forse non sarei dovuta neanche inciamparci, non lo so, certo, però... quello. Quindi è, come dicono quelli bravi, da quel giorno sul treno poi è cominciato un percorso, immagino, giusto? Sì. Quelli bravi direbbero sì, c'è tutto un lungo percorso che stiamo facendo. Va ancora avanti quel percorso, immagino? Proseguirà? Sì, va avanti in vari modi, però sì, forse è un percorso che non finirà mai. E questo non lo dico lagnandomi. No, figurati. Senti, invece, mi spieghi quest'altra immagine che usi, quella delle matriosche, perché mica l'ho capita tutta. Cioè, tu dici, stai cercando di aprire, no, pezzo per pezzo le varie bambole per andare sempre più a fondo. Sì. E tu dici, io ho paura alla fine di non trovare nient'altro se no sta cazzo di matriosca che continua a sorridermi e non si apre più. Sì, esatto. Cioè di non avere una risposta precisa su cosa sia successo, perché comunque il ricordo c'è, ma è molto censurato. Non riesco a ricordare molto, non riesco a ricordare neanche bene l'età in cui è accaduto, quindi figurati. Certo. Che cosa dicono a proposito di quelli bravi? Immagino che tu abbia sia andata da un analista, sì. No? Da un che cosa ti dice un analista? Cosa dice un analista a una ragazza di 33 anni o quanti ne avevi, insomma, prima quando sei andata, che gli racconta questa cosa? Cioè, dov'è che va a scavare? Cosa ti chiede? Cosa ti fa pensare? Allora, diciamo che c'è stata tutta una prima fase nella quale io accennavo e poi scappavo. Per cui in realtà non ero nemmeno pronta lontanamente a parlarne. Quindi in questa prima fase sostanzialmente poi mi nascondevo, non ne parlavo, buttavo il sasso tirato dietro la mano, per usare un detto. Poi devo dire che adesso più che altro quello che mi viene detto è se non lo ricorderai completamente, cioè accetta il fatto che potresti non avere un ricordo. Cioè fai la pace con il fatto che potrebbe essere che semplicemente un pezzo, sì, se n'è andato. Sì, sì, sì, esatto. È che è probabilmente la cosa che veramente mi fa più arrabbiare. Male. Ok. Perché è proprio l'idea di aver censurato un pezzo così importante, tra l'altro. Certo. Anna, senti, poi purtroppo ti devo salutare. Sicure. E so che è una domanda complicata, ma tu riusciresti a dirmi, o se ci hai mai pensato, a qual è stata una conseguenza, se hai voglia di farlo ovviamente, una conseguenza pratica rispetto a questa roba che ti ha impedito di fare una cosa o ti ha obbligato a fare un'altra nell'arco della tua vita fino ad oggi? Oddio, che domanda! Esatto, infatti, guarda, la ritiro e ti saluto e faccio andare alla borsa, direi. Anna, però ti ringrazio comunque per la telefonata, per i racconti innanzitutto e per il coraggio anche. Sembra una banalità la parola coraggio, però in questo caso non mi fa paura dirla, perché immagino che non sia stato facile. Grazie davvero, Anna, in bocca al lupo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Un sacco di parole che fanno paura, però le abbiamo usate, è andata bene così. Voi siete qui. Un bosco fittissimo, direi, di fine estate alle sue spalle, di fine estate perché già il verde sta tendendo all'arancione e forse al rosso. Una maglietta a righe bianca e blu, i capelli castani lunghi, immagino, legati dietro le spalle, un paio di jeans, appoggiata a una roccia che dà appunto sul bosco. Questa è Anna nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio24, la nostra pagina. Abuso. Sostantivo maschile. Uso eccessivo, illecito o arbitrario. Etimo. Dal latino tardo abusus, abuso. Data, primo decennio del XIV secolo. Sono tante le parole che fanno paura, sono tanti anche i messaggi che arrivano di donne che ringraziano Anna per aver raccontato questa storia. Teatro mi fa paura, bullismo, ci sono alcune parole che fanno paura perché sono chiaramente legate a un'opinione comune, no? A una questione sociale. Bullismo, ovviamente, dipendenza, indifferenza, solitudine. E altre invece che non capisci perché. Teatro mi fa paura. Oppure, vabbè, emigrare mi fa paura. E poi ancora suicidio, deceduto, anche domani, progetto mi fa molto, la parola progetto mi terrorizza. 349-238-6666, si parla di parole, si parla di come le parole appunto non siano semplicemente un insieme di lettere buttate lì, ma come rappresentino dei mondi, creino delle suggestioni e soprattutto appunto siano delle azioni e fanno accadere le cose semplicemente pronunciando. Addirittura, come nel caso di Anna, semplicemente ricordandole, cioè tirandole fuori da una strana, da un'immagine, da una suggestione. A proposito di parole, segnatevi una parola che è un insieme di numeri, che è il 27 di giugno, il 27 giugno del 2013, ci sarà l'atto finale di questo programma, che altro, di questa stagione di programma, che altro non è se non l'evento live di Voi Siete Qui. 10 storie selezionate per rappresentare il meglio possibile tutte le storie che sono arrivate e che al 28 di giugno saranno 215, giusto? 215 a stagione, ne abbiamo scelte 10. Vi aspettiamo come al solito gratuitamente qui nella sede di Radio 24, nella Sala Collina, alle 21 del 27 di giugno. È tutto gratis, fate una cosa molto semplice: dovete iscrivervi. Per farlo andate sul sito di Radio 24, andate alla nostra pagina dove trovate la foto che vi ho appena descritto, dove trovate i link ai brani musicali, un pezzo della storia di oggi. Trovate anche sulla sinistra una fotografia della mia faccia, ci cliccate sopra e lì avete un form, cioè una pagina in cui dovete semplicemente inserire i vostri dati. Mandate in via, stampate e arrivate semplicemente giovedì 27 con quello. Di solito c'è un sacco di gente, di solito ci si diverte e ho avuto giusto poco fa un'idea fantastica per il finale che è stata bocciata da Paolino Corleone e da Tiziano Bonini, ma Margherita Hina era entusiasta quando l'altra sera gliel'ho raccontata. Vediamo se tutto torna. Torniamo alle parole, alle parole che vi fanno paura. Novità mi fa paura, futuro, disprezzo, l'abbiamo già letto, totalitarismo è arrivata di nuovo. Quando pensavamo a come le parole possono essere usate in maniera opposta e come possono muovere le persone, quindi appunto, come diciamo, come sto ripetendo dall'inizio di questa puntata, possono far accadere le cose, mi è venuto in mente un monologo di fatto che mi fece studiare il mio professore Paolo Ferraro al liceo scientifico Alessandro Antonelli di Novara, che è un testo di Shakespeare. Quindi qua siamo altissimi, parliamo ovviamente di quelli più bravi a usare le parole. C'è fra tutti i testi di Shakespeare un pezzo del Giulio Cesare che dimostra come usando le parole giuste, anche le parole che fanno paura, si riesca a muovere la folla, a muovere le persone, soprattutto se sono tante, presenti davanti a voi. Giulio Cesare è stato appena accoltellato dai cospiratori, da Cassio e da Bruto. Tu cuoco, Bruto, figli miei, anche tu maledetto mi hai accoltellato. È lì morto. Bruto ha appena detto abbiamo ucciso il tiranno, fino a che a un certo, e la folla è tutta con lui, sono tipo sì, l'abbiamo ucciso, è morto. E a un certo punto esce Marcantonio è grande amico di Cesare, è in una situazione in cui non sa cosa dire, cioè di fatto potrebbe essere ucciso anche lui volendo da questi tizi, e lui esce e la parola che usa, che fa paura ma che utilizza a modo suo, è ambizioso, e praticamente fa su la gente che è presente facendola passare da destra o sinistra, da sopra a sotto, nel giro di un monologo. Not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. Io vengo a seppellire Cesare e non a lodarlo. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa, e così sia di Cesare. Il nobile Bruto, va detto che Cesare era ambizioso, se così era, fu un grave difetto e gravemente Cesare ne ha pagato. Qui, col permesso di Bruto e degli altri, che Bruto è uomo d'onore, così sono tutti uomini d'onore, io vengo a parlare al funerale di Cesare. Egli fu mio amico, fedele e giusto verso di me, ma Bruto dice che egli era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Molti prigionieri egli ha riportato a Roma, il prezzo del cui riscatto ha riempito il pubblico tesoro. Sembrò questo atto ambizioso in Cesare? Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha lacrimato. L'ambizione dovrebbe essere fatta di più rude stoffa, eppure Bruto dice che egli era ambizioso. E Bruto è un uomo d'onore. Tutti vedeste come al Lupercale tre volte gli presentai una corona di re che egli tre volte rifiutò. Fu questo atto di ambizione? Eppure Bruto dice che egli era ambizioso. E invero Bruto è un uomo d'onore. Non parlo no per smentire ciò che Bruto disse, ma qui io sono per dire ciò che io so. Tutti lo amaste una volta, né senza ragione. Quale ragione vi trattiene dunque dal piangerlo? Pur ieri la parola di Cesare avrebbe potuto opporsi al mondo intero, ora egli giace là e non v'è alcuno, per quanto basso, che gli renda onore. Signori, se io fossi disposto ad eccitarvi il cuore e la mente alla ribellione e al furore, farei un torto a Bruto e un torto a Cassio, i quali, lo sapete tutti, sono uomini d'onore, e non voglio far loro torto. Preferisco piuttosto far torto al defunto, far torto a me stesso e a voi, che far torto a sì onorata gente. Ma qui c'è una pergamena col sigillo di Cesare. L'ho trovata nel suo studio, è il suo testamento. Che i popolani odano soltanto questo testamento che, perdonatemi, io non intendo leggere. E andrebbero a baciare le ferite del morto Cesare ed immergerebbero i loro lini nel sacro sangue di lui, anzi chiederebbero un capello per ricordo e morendo ne farebbero menzione nel loro testamento, lasciandolo ricco legato alla prole. Oh, that breaks behind the houses. I don't see what's strange about this. Tiny bubbles hang above me. It's a sign that someone loves me. I can hardly stand upright. Hit my head upon the light. I have faith but don't believe it. It's not there enough to leave it. Everything I love is on the table. Everything I love is out to see. E ancora altre parole che fanno paura: inconcludenza, incapacità, esame, una parola brutta. Probabilmente le parole arrivano anche in base a, fanno paura in base all'età che abbiamo. E poi Massimo scrive: non ci sono parole che mi spaventano, mi spavento quando mi dimentico il loro significato. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Tiziano Bonini, sono Paolino Corleoni e Margherita Ina. Ringrazio soprattutto Anna perché ci ha mandato questa storia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, mi chiamo Davide, abito a Casatenovo in provincia di Lecco e la storia di domani è la mia e parla di acciaierie. Questa è la mia storia e io sono qui.